Sono i cubisti. Loro preferiscono gli angoli alle curve del corpo femminile. Hanno nudi tutti geometrici, puntuti. Hanno un altro modo di dipingere. A me piace il tuo. Sei più simile a Matisse. Thank you.